Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcol fait oublier le temps. Cosa facciamo di diverso? Dove andiamo? Come passiamo le nostre vacanze? Che senso dare al muoversi da casa? Cominciano le belle giornate e questa domanda sta assillando un'infinità di famiglie, di persone singole, di gente che comunque è stanca del solito tran tran di vedere sempre le stesse quattro pareti, di vedere sempre le stesse facce. Allora cominciano le proposte alternative. Noi abbiamo un fantastico ricordo delle vacanze intelligenti in cui Alberto Sordi e la moglie Sbombardona, mossi dai figli, avanzatissimi politicamente, correttissimi, invece che andare nelle solite cialtrone spiagge a mangiarsi la matriciana sulla sabbia, erano stati mandati in giro a fare dei giri turistici. Fantastica la sequenza alla Biennale di Venezia in cui lei sfatta, fradicia, con le gambone grosse, si siede su una sedia e venne scambiata per un'opera d'arte. Erano gli anni in cui accadevano queste cose. Beh, quali sono oggi le alternative? Le persone che vogliono fare delle vacanze intelligenti, le vacanze diverse, o vogliono dare al viaggiare un senso profondo di difformità rispetto agli schemi comuni, cosa vanno a cercare? Come si muovono? Beh, questo è stato oggetto di una profonda e aggiornata trattatistica in un libro che sta per uscire proprio in questi giorni, di cui vi daremo presto notizia. Il turismo estremo. James Bond è il testimonial ideale del turismo estremo, noto anche come shock tourism. Folli discese con gli sci, da concludere con un volo col paracadute, voli estemporanei su aerei da caccia, corse a 100 all'ora su strade di montagna. Ecco qualche esempio di turismo estremo, il turismo più adrenalinico che ci sia. Gli appassionati possono dare un'occhiata al repertorio di Best Russian Tour, dove si spazia dai voli sui MiG alla simulazione di un'emergenza in volo svolta sul sedile iettabile di un aereo, al Military Adventure Tour, che comprende un corso di sopravvivenza in una foresta nei pressi di Mosca. Ecco, questo è un primo assaggio. Quelli più arditi, quelli che amano il rischio, quelli che sono profondi cultori della loro possanza fisica, della loro intrepidezza, di cui trovano oggetto di profonda differenziazione con il cialtronismo imperante dei loro colleghi d'ufficio, dei loro antagonisti sentimentali, dei loro familiari più tranquilli, hanno la possibilità di fare un turismo estremo. 800240024. Esistono anche persone che sono sollecitate nel loro tempo libero dedicato appunto alla transumanza dai luoghi tradizionalmente frequentati durante il periodo lavorativo e le prassi familiari di svolgere un tipo di turismo di segno diverso, meno intrepido e più pedisseco a quella che è la fantomatica osservazione in stato di estasi mistica del vippume imperante. Il turismo che si alimenta di sguardi furtivi si chiama VIP watching. Chi pratica questo genere di turismo non prepara il proprio viaggio sulle Lonely Planet e sulle guide verdi del touring, ma sulle riviste di gossip. Non si tratta di un turismo rilassante, anzi, richiede doti non comuni per superare i numerosi ostacoli che si frappongono tra noi e la meta. I più abili sono quelli che riescono a introdursi nei privé delle discoteche o nelle spiagge più riservate. Tra le location più gettonate ci sono le discoteche frequentate dai calciatori e dalle veline. Il Billionaire di Porto Cervo, il Pineta di Milano Marittima e il Twiga di Marina di Pietrasanta sono l'equivalente del Centre Pompidou per chi ama l'arte o di Stonehenge per gli appassionati d'archeologia. Da un fantomatico servizio giornalistico di Riccardo Iacona, Tutti ricchi, in cui mostrava appunto queste povere ragazzine sfigate che passavano in Costa Smeralda le notti dietro delle barriere di protezione antisfondamento soltanto per vedere i VIP ricchi che andavano nei locali più alla moda, soltanto per farsi vedere. Quindi la funzione essenziale di metà dell'umanità era quella di cercare di accaparrarsi il maggior numero di persone che ti guardano, perché essere visti è sinonimo di esistenza, e gli altri destinati ad appartenere alla stirpe degli osservatori perenni guardano e osservano. Beh, questo e altro di questo hanno detto è racchiuso in un libro. Voi intanto riflettete, raccontateci le vostre vacanze alternative, la vostra maniera di dare un senso diverso al vostro tempo dello spostamento e del viaggio, chiamando all'800240024. Intanto Mario Gerosa, buongiorno. Buongiorno. Allora, Mario Gerosa è un giornalista, uno scrittore, anche un mio amico, assieme a Sara Magro ha appena pubblicato, mi sembra che uscirà domani o oggi addirittura, da domani in libreria, I nuovi turismi, 100 alternative al classico viaggio, Morellini editore. Allora, Gerosa e Sara Magro hanno messo insieme uno sguardo molto approfondito e anche singolare sulla mania contemporanea del viaggio alternativo. Ci sono, Mario, dei filoni, in realtà io ne ho individuati due: il più estremo, quello delle vacanze pericolose, e quello meno estremo, ma più estremo come scelleratezza di obiettivo, che sono l'osservazione dei VIP. Ma possiamo dare innanzitutto delle categorie di spostamenti irrituali degli italiani? Sì, diciamo ultimamente si stanno riscoprendo queste vacanze impegnative, nel senso potremmo riassumere nel fatto che la vacanza sta diventando anche per gli italiani un lavoro vero e proprio. Prima si andava, si lavorava, si sudava per andare in vacanza, adesso si va in vacanza per sudare, per lavorare, quindi diciamo è una vacanza estremamente faticosa che però richiede tutto questo impegno, perché la vacanza non va tanto goduta sul posto ma poi raccontata alla gente. Allora cosa troviamo? Il cosiddetto world tourism, che anche gli italiani stanno scoprendo. Cosa vuol dire? Gente, sembra assurdo, ma va nei luoghi di guerra proprio per fare il turista embedded, come fossero dei giornalisti o dei militari che seguono proprio l'azione mentre si svolge. Oppure c'è il disaster tourism, gente, anche qua sembra paradossale, ma che vorrebbe partire adesso per esempio per il Giappone per vedere da vicino, anche se rischioso, cosa sta succedendo. E poi purtroppo c'è il cosiddetto lacrima tourism, dove sono queste specie di pellegrinaggi laici di gente che va a piangere, non si sa se commossa veramente o meno, nei luoghi dove ci sono state tragedie, da Vetrana a Cogne. A Vetrana è stato, diciamo, uno dei luoghi turistici più battuti, ricordi? Intere domeniche in cui le persone vengono per dare un omaggio, ma stanno lì davanti alla buchetta dove hanno seppellito la povera bambina ammazzata, a guardare, a osservare, a fare foto. Tu che sei anche un osservatore, diciamo, di mondi riprodotti, sei stato uno dei primi a scrivere sugli italiani che facevano questi viaggi fantastici nei mondi paralleli, in Second Life e via dicendo. Quanto aiuta il fatto che oggi abbiamo delle protesi di riproduzione individuali molto accentuate? Cioè, noi andiamo in vacanza sapendo che entro 10 minuti potremmo, non so, pubblicare sul profilo Facebook le nostre foto. Io mi diverto molto a vedere il lunedì mattina le foto del weekend delle signore che rientrano in ufficio e mettono loro che vengono particolarmente bene, adesso ci sono i primi soli, le prime abbronzature, le settimane bianche, i barbecue, tutte scuse. Poi fanno vedere i bambini, in realtà per far vedere la mamma con la coscia a favore cellulite, cioè a favore di ombreggiamento pudibondo sulla cellulite. Esattamente, c'è questo discorso, proprio questo bisogno di partecipazione totale, che fa parte, se vogliamo, anche della nostra società, del reality, del bisogno di essere anche noi parte dello spettacolo. Prima bastava vedere appunto al telegiornale o al cinema, eccetera, le location, i divi, eccetera. Adesso bisogna per forza essere divi anche in vacanza. E per cui cosa succede? Fino a qualche tempo fa, per esempio, andava di moda il cosiddetto cineturismo, teleturismo, si andava a Gubbio come a Dallas per vedere i luoghi appunto dove sono state girate le serie, i film, eccetera. Adesso invece ci si sente proprio parte della cosa. Io sono stato l'anno scorso a Los Angeles, abbiamo visto le casette delle casalinghe disperate e c'era gente che non le vedeva più come riproduzione ma come realtà, si sentivano parte di questo scenario e diventa un po' un Truman Show, una vacanza virtuale ma portata arrivata all'ennesima potenza questa volta, io, più Second Life. Io personalmente, Mario, poi in questo daremo il giudizio ai nostri ascoltatori, non lo vedo nemmeno negativo. Si aprono delle dimensioni multiple di fruizione di altre qualità del tempo. Ben venga la persona se è appagata, se è contenta, se è felice, se per lei è un'esperienza comunque trasfigurante rispetto alla propria realtà quotidiana, di andare in un luogo fittizio, un luogo che, in cui è rappresentato il set di una fiction televisiva, entrarci dentro e avere l'impressione di entrare in un'altra dimensione. Questo però alimenta sicuramente il senso di rettitudine di chi vuole distinguere con una manichea differenziazione le cose buone, le cose da fare, le cose eticamente corrette e quelle che in realtà portano verso il distruttivo mondo della fantasia. Sentiamo Carlo come la pensa. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma io sicuramente non sono d'accordo sul fatto che esistano due categorie principali di vacanze, cioè la vacanza estrema o la vacanza VIP watching, come l'avete chiamata voi. Io appartengo alla terza categoria, allora, quella che invece intende la vacanza per quello che secondo me è essenziale farla, cioè il riposo. La cosa che faccio però è che non ho mai fatto, e col passare del tempo lo faccio sempre di meno, di andare via a luglio, ad agosto, cioè io me ne vado, magari preferisco farne meno ma farle lunghe, farmi magari uno o due mesi d'inverno nel sud della Spagna, tranquillo e rilassato con la mia famiglia quando non c'è nessuno. Beh, quindi è esattamente il contrario. Sì, io ne ho citate due, ce ne sono decine nel libro di Gerosa, me ne faccio sentire qualcun'altra, ma guardi che anche lei, elencando semplicemente questi brevi tratti a sua vacanza, rientra in una categoria. Mario Gerosa. Sì, assolutamente. E tra l'altro c'è il discorso appunto della vacanza postmoderna, per esempio, che è quella di persone come questo ascoltatore che ha parlato adesso, che riscopre luoghi che apparentemente sono come quelli che vivevamo una volta negli anni 70, negli anni 80, ma in realtà si stanno trasfigurando, come dicevi tu Gianluca. In effetti penso alla città di Celebration in America, una città perfetta stile Walt Disney, o penso a certi borghi apparentemente intatti. A volte noi pensiamo ad andare in luoghi che sono autentici, genuini, che fanno parte della vacanza classica, ma in realtà siamo comunque preda di una evoluzione, di una rivoluzione anche positiva. Guarda, io sono umbro, sono da ragazzino fino adolescente, fino anche ho vissuto in Umbria, guardavo con grande attenzione e divertimento i turisti che andavano a Assisi. Assisi è la più tarocca delle città possibili, è tutto una sorta di medioevo ricostruito, rileccato, ritaroccato, poi Forina è stata anche terremotata, ma insomma Assisi è una finta città mistica dove in realtà è un grande luogo di smistamento, di turismo di massa. Ecco, lì ho visto la Disneyland mistico retro ricostruita Assisi, e ce ne saranno altri mille, come diceva l'ascoltatore. Riandare oggi a Castiglioncello, Marinella di Pietrasanta, che ne so, adesso ognuno poi ha secondo le sue locazioni i luoghi, Fano, ritrovare le vacanze d'antan e fare questo retroturismo che diceva appunto Mario Gerosa. Survival tourism. Molti scelgono di frequentare corsi di sopravvivenza o perché vogliono trascorrere due settimane in stile paramilitare o perché l'azienda chiede ai propri dipendenti di fare uno stage motivazionale, spesso orientato al team building. Ebo Adventure propone pacchetti di survival training che si tengono in Cornovaglia, ma che prevedono tutte le varianti, dalle tecniche di sopravvivenza nella giungla a quelle nel deserto. C'è pure l'Extreme Survival Course, con esercizi di search and rescue, atterraggio con elicottero, orientamento e evacuazione di vittime. Poi, per dimostrarvi che lo spettro è veramente variegato e toccare gli estremi facilissimo, il team building ne abbiamo parlato, queste cose da geometri evoluti, da impiegati di passaggio di categoria che vanno a farsi fustigare, a fare percorsi di guerra, a fare delle autocoscienze devastanti perché pensano che questo sia funzionale alla loro carriera, e le persone che ormai sono fuori dalla catena produttiva, che in realtà si accontentano di essere caricate su un pullman, portate andate in giro fuori stagione in tristerrime località, forse amene in altri tempi, cui gli viene data una mezza ala di pollo lessata e una insalata con i baccarozzi, in realtà devono comprare pentolame, frullatori antidentiera, pezze di lana merinos per i loro dolori e via dicendo. Sono appunto le gite dei pentolai. La gita delle pentole. Per decenni, ma soprattutto nel periodo del boom economico, i tour delle pentole avevano inizio nella casella delle lettere, dove si trovavano curiosi e coloratissimi volantini che invitavano a programmare gite a prezzi stracciati nei luoghi più celebri e pittoreschi del bel paese. Le Cinque Terre, la Certosa di Pavia, Livigno, le Dolomiti, il Principato di Seborga per chi abitava al nord, Pompei o Castel del Monte per chi abitava al sud. Una gita lampo indimenticabile, con pranzo compreso nel prezzo, in media 9.900 lire, e poi l'inevitabile dimostrazione di qualche prodotto per la casa, soprattutto batterie di pentole, ma anche piccoli elettrodomestici, enciclopedie, poltrone massaggianti, coperte in lana merinos e servizi di piatti. In verità, c'erano anche viaggi più complessi della durata di 2 giorni, con pernottamento in hotel e dimostrazioni più importanti. Grande Mario Geroso, io ricordo una 15ina d'anni fa mi imbucai in una di queste gite di vecchietti, mi sgamarono subito che era l'unico che aveva sotto i 70 anni. Ma notai una cosa, erano felici, sapevano perfettamente, erano degli abitué, i sadici venditori di pentoli maltrattanti, sei già venuto 3 volte, ancora non hai comprato niente, vergognati. Erano tutti dei presidi di conforto per la terza e quarta età, però erano contenti, nessuno li calcolava, nessuno si occupava di loro, almeno per una giornata, passavano una giornata in allegria. Mi ricordo il sadismo dell'autista, passava davanti ai cimiteri e diceva: qualcuno vuole scendere? C'è una fermata anche qua. Mario Gerosa. La cosa divertente è che adesso c'è una nuova generazione che sta riscoprendo questo tipo di viaggi e la riscopre con lo spirito della cultura trash, per cui si sa che i propri padri, i propri nonni andavano, prendevano parte a queste gite e si vogliono rifare queste esperienze che hanno un po' il sapore proustiano della riscoperta. Allo stesso modo si va nei luoghi classici dove gli architetti vi invitavano ospiti a pranzo. C'è questo discorso di riscoprire luoghi che apparentemente non avevano nessun tipo di interesse, ma invece diventano assolutamente straordinari. Beh, tu ricordi le famose case del mobile, la colazione con gli architetti, nonno Ugo, grande nonno Ugo qui alla periferia di Roma, aveva fatto una città, lui era il sindaco, c'era Carmen Russo, c'era tutto, uno andava lì a comprare le camerette per i bambini, passavano a meno fine settimana se voleva. E riprendendo il discorso di prima, poi un altro tipo di turismo che lega quello virtuale al turismo di guerra di cui abbiamo accennato prima è quello dove si tende a confondere addirittura i due ambiti. Conosco gente, per esempio, che gioca a videogiochi di guerra ambientati in Afghanistan e lo fa tenendosi non la guida del videogioco ma la Lonely Planet, quindi la guida di viaggio. C'è sempre di più, per riprendere quello che dicevi prima, questo discorso di sinergia tra diversi tipi di turismo. Qua ne abbiamo citati 100, ma in effetti si intrecciano continuamente. Il viaggio delle pentole può diventare per assurdo turismo di guerra, il deep watching può diventare turismo postmoderno, è tutto un ricombinarsi di tipi di viaggi. E soprattutto, Mario Gerosa, vedo adesso, ma farò parlare l'ascoltatore Fabio, che chi è convinto di aver individuato un filone originale, è fuori dalle mode, tutto, in realtà rientra in una categoria. Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi. Niente, volevo solo portare il mio contributo. È chiaro che nella vita chiunque fa una scelta inevitabilmente cade in una categoria. Certo, ma per scherzare un po'. No, certamente, è il presupposto. No, ma io ho avuto questa esperienza molto particolare del Cammino di Santiago, in realtà metà, 400 chilometri in 15 giorni. L'ultimo pezzo. Sì, l'ultimo pezzo, affrontato da ateo e laico, quindi senza nessuna... Ma va molto di moda, ci è andato anche Udi Freddi, ci va il sindaco Alemanno, c'è tutta una caterva di post-laici che vanno a fare il Cammino di Santiago perché gli dà anche gusto faticare. È nato proprio come una sfida fisica. Ma le conclusioni poi sono state appassionanti, perché mi sono trovato a fare un turismo particolare, in ambienti particolari e soprattutto circondato di persone bene o male già selezionate dalla scelta. Quindi una solidarietà, un'umanità, fare 30 km al giorno, 35 a piedi, che a cose normali. Nascono grandi amori lungo il cammino di Santiago. Nascono grandi e anche grandi amicizie, devo dire. Sì, sì, la sera ci si lecca le vesciche a vicenda. Esattamente, si mangia tutti insieme, si dorme tutti insieme. Lo so, quello è il bello. Un modo che ha rivoluzionato il mio concetto di turismo. Sì, sì, beh, poi si arriva, guardi, non a caso, molti anni fa mi occupai di questa cosa qui, era un cammino che ha appassionato l'umanità dal Medioevo in poi, e diciamo che era la zona più frequentata da locali a luci rosse di tutti i tempi, perché si sa che i pellegrini lungo il viaggio avevano molte esigenze, poi arrivavano a vedere la città di Santiago, c'era un torrente chiamato Lava Coyas, che significava appunto lava aree genitali, in cui si purificavano e poi andavano felici perché potevano avere portato a fondo il voto, per capire che la sapevano lunga, tutti hanno sempre saputo che dietro il turismo mistico esiste una possibilità di peccare per poi dare più senso alla mortificazione. Ci fermiamo un istante per dare la linea alle informazioni della borsa e continueremo con questa fantastica alternativa, ma in realtà omologata, maniera di fare viaggi diversi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il turismo postmoderno. Questo è il turismo di chi ama tutto ciò che è finto, rifatto e artificiale. In generale, per il turista postmoderno, la copia è assai più attraente dell'originale. Anziché andare a Bellagio sul lago di Como, si va all'Hotel Bellagio a Las Vegas, città faro di questo tipo di turismo. Piuttosto che andare a Londra, va a vedere il London Bridge a Lake Havasu in Arizona. Al Partenone vero, preferisce quello che c'è a Nashville, Tennessee. I fedelissimi del postmodern tourism vanno a visitare il castello della Bella Addormentata a Disneyland esattamente come se andassero in gita in un antico maniero europeo. Tutto quello che sa di copia, tutte le architetture squisitamente più vere del vero, attraggono i fanatici di questa nuova forma di turismo. Insospettabile la raffinatezza nelle scelte estetiche dei nostri connazionali, che hanno riscoperto il gusto del tarocco, il gusto della fantastica e barocca affascinazione di ogni riproduzione e di ogni metafora della realtà, anche nel senso del trash, del kitsch, del ostentatamente volgare, quindi degno di attenzione. Ma sentiamo Carmen. Carmen, buongiorno. Buongiorno. Cosa fa lei? Ah, io sono insegnante di inglese alle superiori. Quindi fa le gite scolastiche, tristissime. No, beh, a parte le gite scolastiche, che sono un caso a parte, volevo parlare della mia esperienza allucinante di turismo intelligente. Era di moda anni fa, avventure nel mondo, cioè stare in mezzo alla gente, fare le cose che era anche un altro luogo di cuccaggio per zitelle e scapoloni, diciamo la verità. Sì, io non ero né zitella né... Non dico che sia il suo caso, ma... Certo. Avevo fanta miliardi di amiche in un pochino agé e poco fortunate e anche a volte svantaggiate esteticamente, che in avventure del mondo hanno toccato universi penetrativi inimmaginabili, quindi anche questo senso. Prego, andiamo. Inimmaginabili e allucinanti. Io avevo un'amica capogruppo di avventure nel mondo che ha insistito perché andassi un mese in Cina. Eh sì, la Cina era uno degli itinerari più preferibili. Certo. Non ho mai capito perché, che poi non mi sembrava un luogo particolarmente consono a fantastiche avventure, ma comunque. No, ma la mia idea di turismo è stare a guardare tranquilla le cose, prendere l'aperitivo per guardare la gente che passa, osservare. Avventure nel mondo al concetto opposto, fare in metà tempo tutti quelli che fanno nel doppio di tempo. È un tour de force, sì, è vero. Esatto, sì. Un tour de force, come nei film western, cioè tutto di corsa e non vedi niente. Sono uscita dopo un mese di Cina convinta di non aver capito assolutamente niente, a Shanghai mi sono rifiutata di seguire il gruppo, me ne sono rimasta da sola e sono stata benissimo perché ho avuto il tempo di sedermi e guardare i cinesi che prendevano l'aperitivo. È un po' come oggi accade con le crociere, uno pensa beh in crociera si riposa, esatto, no, ci si ferma esatto. Ogni giorno e no. Bisogna scendere di corsa a vedere, che ne so, in 30 secondi una città. Sì, ma le dico in due secondi un esempio. Eravamo a Beijing, a Pechino, e la mia amica capo mi ha detto: ah, sono riuscita a prendere il pullman e a fare in un giorno tutto quello che gli altri fanno in due giorni. Quindi ho visto le tombe dei Ming di corsa, la muraglia cinese quando stava chiudendo. Per me è stato un viaggio allucinante. Da allora ho deciso che mi sarei fatti i viaggi o da sola o con mio marito che condivide le mie idee, tranquilla, potendomi sedere, osservare, eccetera, tutto quanto e pensare. Sì, io ricordo un tour delle piramidi fatto in 45 minuti, qualcosa del genere. Qualcosa del genere. Veramente faticoso. Grazie. Allora riprendo con Mario Gerosa, che so che ci deve lasciare, giornalista e scrittore, che è autore assieme a Sara Magro di Nuovi Turismi, 100 alternative al classico viaggio, Morellini editore. Un tuo commento a questa ultima telefonata, in generale al senso del vostro lavoro, poi ci salutiamo e passiamo avanti. Sì. Direi che l'ascoltatrice ha focalizzato proprio il discorso del turismo come bisogno di collezionare luoghi. Questo c'è sempre stato, se vogliamo, il classico turista giapponese fotografa tutti i posti come fossero trofei, però adesso con Facebook, Flickr, questi siti dove bisogna postare le proprie foto, tutto questo viene esasperato e la gente colleziona molti più trofei di una volta, quindi è una tendenza assolutamente in voga. Quindi è conferma Mario Gerosa quello che è la nostra impressione all'inizio. Viene variegato e moltiplicato il turismo alternativo dal fatto che noi ormai abbiamo necessità e anche volontà di avere dei luoghi in concreti in cui depositare le tracce fotografiche e iconografiche dei nostri turismi. Assolutamente. Grazie Mario Gerosa, ci sentiamo la prossima volta e andiamo avanti. Il couchsurfing. Un tempo c'era il giovane turista che girava il mondo in autostop. Oggi invece va di moda chiedere un passaggio in casa, assicurando il minimo del disturbo. Un cantuccio sul divano e nulla di più. Lo scopo è simile, girare il mondo spendendo poco e conoscendo gente. La parola dice tutto. Couch uguale divano, più surfing uguale saltare da un posto all'altro. Del tipo, hai un divano libero? Allora perché lasciarlo inutilizzato, improduttivo, quando spenta la TV potrebbe dare riposo a un giovane viandante con budget limitato? Ecco, adesso entriamo in un'area più profonda e anche lievemente pruriginosa, quindi datevi da fare. 800 24 00 24, sono molto curioso di sapere le vostre vacanze alternative, le vostre forme di turismo inconsueto. Non vi prenderò in giro, non vi dirò che siete omologati, non vi dirò che farete parte di categorie già esistenti, ma prometto, giuro, su quello che volete, starò in religioso silenzio, non ironizzerò, però voglio saperlo, fatemi sapere qualcosa. Come la coraggiosa insegnante di inglese che ha ammesso di aver frequentato quel luogo di umidicci incontri prematrimoniali che è Vacanza nel Mondo, fate anche voi un passo simile, non farò nessun commento, ma passo alla seconda autrice di questo libro, l'autrice che assieme a Mario Gerosa ha scritto appunto Nuovi Turismi, 100 alternative al classico viaggio, per entrare più nel profondo. Sara Magro, buongiorno. Buongiorno. Allora, Sara Magro è una giornalista specializzata in viaggi, vero? Sì, sì, ho lavorato a Traveler per 11 anni e diciamo che ho toccato con mano il mondo dei viaggi in tutte le sue forme, provandolo prima di entrare a lavorare a Traveler, perché quando si entra in una redazione non si viaggia molto, e poi successivamente, appunto, dal punto di vista teorico, ho conosciuto vari tipi di turismo. Diciamo che il mio è un turismo teorico, ecco, quello che pratico. Però ne sai. Senti, questa sorella del divano a disposizione, sì, in realtà è l'antitesi di ogni addetto a organizzare viaggi altrui. Con questo sistema nessuno spende più. Ah certo, questo sicuramente, infatti rientra all'interno del nostro libro nel capitolo Viaggiare al risparmio, quello che sicuramente non ha bisogno di un tour operator, però questo non significa che non ci sia bisogno di intermediari. Infatti oggi come oggi il couchsurfing è super organizzato, super strutturato e anche in super evoluzione. Anche diciamo perché uno vorrà delle garanzie su chi mette sul proprio divanetto. Ecco, allora, infatti, proprio per non trovarsi il killer, l'assassino che potrebbe essere sia chi arriva, sia l'ospite che l'ospitante, vengono organizzate grazie al web delle directory. Diciamo che la prima si chiama coachsurfing.org ed è stata fondata nel 1999 e consente di mettere in contatto le persone che però sul web si conoscono prima, per cui c'è una specie di garanzia attraverso il web di chi ospiterai e di rintracciabilità tutto sommato. Ma uno sul divano si toglie solo le scarpe e si stende sul divano o viene messo anche un piccolo presidio, qualcosa che assomiglia a un letto? Il divano è solo un aspetto simbolico, proprio realmente è divano? Allora, diciamo che dipende da chi ti ospita, nel senso che si parte dal divano ma si può trovare di tutto. Infatti c'è un caso molto interessante che si chiama airbedandbreakfast.com, che è anche qui un sito internet, che è stato fondato da due giovani americani di San Francisco che si chiamano Joe Gebbia e Brian Chensky, che nel 2007 erano a San Francisco, erano studenti, e c'era un congresso importantissimo sul design, praticamente i posti letto in città erano completamente esauriti. Allora, siccome erano giovani studenti e squattrinati, hanno detto proviamo a mettere il nostro divano in palio e vediamo se qualcuno se lo compra. E così è stato, immediatamente hanno occupato il divano ma anche il pavimento e tutti gli spazi liberi del loro appartamento da studenti, e da lì hanno messo insieme proprio un sito internet, una directory, dove ci sono persone che offrono i loro spazi, che vanno appunto dall'amaca in giardino addirittura al tepee dietro casa, a ville e castelli, dove tu puoi scegliere la sistemazione che più ti aggrada con, vi dico, si possono trovare 7.117 località in 158 paesi, dove si trovano, oltre al celebre divano, un tipi indiano, un caravan tipo Figlio dei Fiori, un bungalow sugli alberi o persino delle ville con piscina. Ecco, sentiamo un attimo Nicola, ci chiama ascoltatore Nicola, che mi sembra che di questo abbia avuto esperienza personale. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Lei è stato, diciamo, fornitore di divano o ha usufruito di divani altrui? No, io ho praticamente, tramite un amico, ho usufruito dei divani altrui e abbiamo ospitato a Venezia, più precisamente alle Vignole, parecchie turiste che erano interessate. Insomma. Turiste interessate, lui ha specificato anche il genere? Sì, turiste, soprattutto turiste, perché nel couchsurfing c'è la possibilità di scegliere se ospitare coppie o donne o uomini, insomma. Ah, quindi uno può scegliere, cioè, io voglio solo donne, a casa mia il divano è solo per donne. Sì. E si è trovato bene? Molto. Va bene. Abbiamo conosciuto molte ragazze, sì. Ma abbiamo molte chi? Ragazze. Lei con chi? Assieme a chi? Io con il mio amico che ospitava. Beh, squadra, avete trovato una maniera provolonica di mettere, cioè di riempire il divano di signore e signorine, praticamente vi pagano pure. In realtà non è, no, in realtà è tutto assolutamente gratuito, non si riempie quasi mai il divano, bensì una camera per gli ospiti, quindi il divano... Sì, perché io penso, ma a voi cosa ve ne viene di ospitare una persona a casa? Ma guardi, al contrario di quello che si può pensare, che magari per secondi fini, di solito si ospita proprio perché poi comunque ci vuole essere ospitati. Ma l'intima d'azione è venuta, sinceramente? Sì. Vede, quindi allora qualcosa ne viene in cambio, non è che proprio si fa sì, gratuitamente. No, guardi, non è solo quello. No, chiaro, esiste. Lo si fa soprattutto perché poi comunque si vuole avere l'aggancio all'estero. Questo è il principio per cui noi abbiamo cercato di usufruire appunto del couchsurfing per appunto poi essere ospitati all'estero, e diverse possibilità ci sono aperte. Devo così dire, c'è pane con panatico, come si dice dalle mie parti. Sì. Guarda, io non ho nessuna preclusione di tipo etico e morale, mi sembra una maniera perfetta di libero e accettato e anche controllato scambio emotivo e logistico, quindi ben venga appunto anche questa maniera. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui si. C'è un'ascoltatrice che mi scrive polemica su Facebook, Isa Tao. Telefoni può parlare, perché dice per lei il coach surfing non è solo scroccare un posto letto, è una filosofia di voler vivere come e con chi vive il posto che visitiamo. Ma evidentemente è meglio parlare di Trifola che della realtà sfaccettata, vero? La Trifola fa più audience. Ci telefoni, chiami all'800 24 0024 e ci mostrerai il lato socio-antropologico, appunto, di andare nei divani altrui. Ma c'è anche quello, non lo escludo, non mi interessa, non mi interessa l'aspetto pruriginoso, però è chiaro che due ragazzi che mettono a disposizione di sole donne i loro divani, e che ci sia dietro un intento di ottenere intimidazioni, mi sembra logico, naturale, banalmente e ottimisticamente divertente. Non ci vedo nulla di male, non è che fa audience, sempre queste baggianate. Giuliano, buongiorno. Giuliano, buongiorno. Lei cosa si è inventato? Ah, io non mi sono inventato, innanzitutto saluto lei e tutti i radioascoltatori. E io non mi sono inventato niente, volevo solo far presente il mio modo ormai consolidato da anni di fare le ferie, che è quello di girare l'Europa in moto, con un itinerario di massima, fermandoci dove ci si trova bene, magari pensando di arrivare in un posto e poi non arrivandoci perché strada facendo si vedono altri posti interessanti, dormendo dove capita, nel senso che a volte si può dormire affittando una camera da privati, a volte con la tendina che... Sì, poi vedo, sento che lei è un tipo tranquillo, quindi non è che ha fretta, con calma e con tranquillità ci si muove in moto, ci si ferma, ci si stravacca, si riparte, sì, via, sì, dicendo. Sì, vabbè, bocca al lupo Giuliano, mi piace questo. Torno invece a Sara Magro, che assieme a Mario Gerosa ha scritto Nuovi Turismi, 100 alternative al classico viaggio, editore Morellini. Ti farò adesso domande molto precise e molto circostanziate, così andiamo al punto. Turismo LGBT, di che si tratta? Allora, questo è un turismo, anche questo, che ha avuto un boom negli ultimi 20 anni, perché quasi tutte le categorie che noi abbiamo delineato sono categorie che si sono precisate negli ultimi 20 anni a seguito di una specializzazione del turismo, diciamo, perché tutto si specializza e anche il turismo si è specializzato. Nella fattispecie LGBT è una sigla e significa lesbian, gay, bisexual and transsexual in viaggio. Questo modo di viaggiare, diciamo, nasce da un'esigenza di queste persone di avere dei luoghi dove potersi diciamo sentire a loro agio e vivere in tranquillità la loro realtà senza doverla nascondere. Rappresenta il 7% del mercato italiano e soltanto nel 2010 ha procurato un giro d'affari di 3 miliardi di euro. Ma come euro, una volta erano certe isole greche in particolare, ci sono dei paradisi... Mykonos. Esatto. Adesso sono cambiate anche le mete, nel senso che se parliamo d'Europa, la capitale gay friendly per eccellenza è Barcellona, ma a livello mondiale una classifica che è stata stesa stabilisce che è Tel Aviv la meta preferita gay del 2010. Tel Aviv. Ma sì, Tel Aviv, esatto. La cosa interessante è stato il primo esperimento di turismo gay friendly, che risale al 1985 da parte di questo signor Kevin Mossier, che era evidentemente un omosessuale, il quale aveva avuto l'idea di creare dei luoghi dove l'omosessualità potesse essere vissuta liberamente e tranquillamente come conviene ad un periodo di vacanza, e quindi aveva iniziato a cercare in giro per gli Stati Uniti dei resort che concedessero delle settimane, diciamo così, per raduni e vacanze gay friendly. Quindi ha lanciato diciamo il genere, ecco, il genere. Sì, di... ha lanciato il genere proprio della ricerca esclusiva. Oddio, non è che si inventavano tanto, già nell'Ottocento c'erano questi romantici, sì, fotografi esistito, tedeschi, von Gloden, viene che andava a fotografare, diciamo, i ragazzini, ecco, sui templi di Senilunte, cioè, con questa ricerca del classicismo in realtà si andava a cercare carne fresca. Andiamo avanti, questa, esatto, frase mi costrà tantissimo, era così, questo fotografo andava lì, prendeva questi ragazzi, gli metteva delle ghirlandine di fiori e frutta, li fotografava nudi sulle rovine greche, e si presupponeva che il fascino per lui fosse di entrambe le statuarie rappresentazioni. Andiamo avanti, abbiamo Vincenzo. Vincenzo. Dottore, buongiorno, mi sente? Sì, certo. Sì, Vincenzo da Matera. Dottoressa, io ho chiamato perché sostanzialmente ho sentito i ragazzi, il ragazzo che ho chiamato prima, che diceva, non esplicitamente, ma lo sottintendeva, per motivi pruriginosi. No, no, ha detto intima d'azione, nessun prurito, l'ha detto chiaramente, palesemente, dichiaratamente. Secondo me questo non rientra nei goal, negli obiettivi del Couchsurfing. Beh, dipende dal punto di vista, ognuno ha il suo punto di vista, non escludo nessuno. No, se legge statutariamente l'obiettivo del Couchsurfing, io penso che se i due ragazzi, se quelli del Couchsurfing venissero a saperlo, avrebbero qualcosa da dire. Vabbè, mica avranno obbligato con catene e sostanze soporifere, sarà stato un piacevole interscambio culturale, non ci vedo nulla di strano. Per me equivale andare a cena fuori, non faccio differenze. Non c'è dubbio. Io quello che volevo dire è che l'obiettivo è un altro. Io vi porto la mia esperienza. Noi abbiamo viaggiato con degli amici in tre, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia e Svezia, tutte e tre, tutte e cinque in Couchsurfing. Guarda caso, però, paesi ad alto tasso... Diciamo, no, non c'è... Cioè, scusi, mi ci tira proprio. Sembra le vacanze facciano gli operai e il dirigente della Fiat degli anni 70. Allora, ma che fanno ancora? Sì, però con le valigie piene di penne birro e collan in quegli anni, oggi non più. Sì, no, infatti, dottor, ma mi faccia smentire subito qualsiasi idea maliziosa. Siamo stati ospitati, abbiamo cercato più coppie, ma casualmente, e uomini, quindi... Ognuno ha le sue tendenze, io mica voglio sindacare le vostre scelte, scusi, sono una persona aperta. Va bene, dottore, insomma, accettiamo la battuta. In ogni caso, non è questo. Volevo dirle i lati positivi e i lati negativi, questo volevo parlare. I lati positivi che soltanto il Couchsurfing può dare sono... Per ritornare alla sua domanda, perché ospitare o perché essere ospitati, perché andare a Couchsurfing? A parte il dato economico, ma quello è discutibile, perché in quei posti che abbiamo detto, ecco, perciò non a caso, perché poi è quasi indifferente rispetto a un ostello della gioventù. Qual è il punto? Anche perché, mi scusi la parentesi, prego. Uno minimamente dovrà sdebitarsi, no, che ti offre casa, non vuoi invitarlo a cena, alla fine non è che è gratuito. Questo è il lato negativo. Arrivo subito. Il lato positivo, voglio partire dal lato positivo perché è quello che soverchia nettamente il lato negativo. Il lato positivo è che tu entri in contatto con la gente del posto che ti porta a casa loro e ci parli, ci ceni, discuti e soprattutto, ecco, per esempio a Tallinn, dottore, ci ha portato questa ragazza, questa signora, ci ha portato, anzitutto abbiamo fatto la sauna con lei, quindi, perché là tutti hanno, come noi abbiamo il bidet, loro hanno la sauna. Cioè, scopri, naturale. Ecco, sì, naturale magari per lei. Se lei andava a Gallarate, le dava un bagnetto alla turca magari, non lo so, comunque giusto. Però per chi non è mai stato a Gallarate e viene dalla Svezia, dice, oh caspita, mi danno, ecco, quindi dipende. Avete fatto la sauna con la padrona di casa? Abbiamo fatto, sì, frustati da queste foglie, non ricordo più di quale albero. Vi siete fatti frustare dalla padrona di casa? Ci siamo frustati vicendevolmente, non solo, ma ci ha portato, perché Tallinn poi è una bomboniera, quindi se abbiamo fatto il centro storico, le mura, il classico giro turistico, bellissimo, vabbè, una bomboniera, eccetera. Ora, se noi fossimo andati, tendenzialmente, poi non si sa mai, è chiaro, se noi fossimo andati da soli o con un tour operator ancora peggio... chi vi frustava? È chiaro. Avremmo visto soltanto dove ci ha portato, Editral si chiamava, ci ha portato nei vecchi quartieri operai dell'ex Unione Sovietica, che nessuno ci sarebbe mai andato per una serie di motivi, perché non è conosciuto, perché è un po' pericoloso, eccetera. E si è aperto un mondo, è stata una cosa, un'emozione eccezionale, e via dicendo. No, ma questo l'ho capito, diciamo che dunque c'è una gradualità infinita nei rapporti umani e nelle relazioni con le persone, ognuno poi va al livello a lui più consono. È chiaro che entrare in contatto amichevole con persone del posto, se hanno dei punti di vista diversi rispetto che se la fare un viaggio organizzato. Sara Magro, su questa ultima telefonata una battuta che siamo in chiusura. Dunque, quello che voglio dire è che l'esperienza dell'ascoltatore è sicuramente valida e il coach surfing ovviamente nasce come come incontro di persone, principalmente dal punto di vista culturale, sociale, poi le conseguenze possono essere mille. E quindi diciamo che la mission è compiuta, a prescindere da come si svolge poi la relazione. E mi sembra che di tutte le forme di vacanza che abbiamo noi toccato nel vostro libro, ce ne sono un centinaio, sono tante, questa è quella che suscita più interesse, perlomeno ha più l'aspetto di novità, perché è fuori dai circuiti artificiali e permette una socializzazione che è molto simile al social networking. Quindi si richiude il cerchio con quello che avevamo detto Gerosa, che oggi il training che facciamo quotidianamente attraverso le nostre protesi emozionali poi diventa utile quando vogliamo muoverci fisicamente. A domani. Ascoltate, Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Vi ha presentato Melog 2.0. Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.